nel tutto quello che sta succedendo qua intorno alla TAV è sempre colpa della polizia, Io credo che ieri sia stata colpa della fatalità, non tanto della polizia. Le posso garantire che la forza di polizia esistenti qua sul mio territorio fanno veramente di tutto per evitare che la gente abbia delle conseguenze anche fisiche, quindi su questo lo escluderei. Che lettura però dà di quello che è successo? Perché sai, qualcun altro in maniera un po' impietosa dice Abbas l'hai cercata. Beh, su questo sarebbe troppo semplice definire Abbas l'hai cercata, perché bisogna un attimino veramente andare a verificare quello che sta succedendo in valle. Io sono oramai mesi che dico non si capisce bene quello che succede in valle, perché alla fine qua si deve fare un buco, si deve far passare un treno in questo buco, quindi alla fine in sé l'opera non penso che sia una cosa che possa stravolgere il mondo, no? Però c'è una contestazione del territorio, dove lo Stato è intervenuto non con il buon senso, non con il dialogo, ma inviando praticamente le forze di polizia e basta, cioè, quindi usando invece del cervello i muscoli, ed è questo il problema. Io oggi a dei suoi colleghi dicevo se lo Stato si fa notare la sua presenza con questo modo qua, forse c'è da ripensare, ma non a ripensare all'opera che se magari serve come credo, no? Perché comunque si dicono che oggi l'economia non permette tutte queste cose qua, però bisogna anche essere ottimisti, un domani l'economia ricomincerà e nel domani bisogna anche avere poi le strutture, infrastrutture pronte per consentire a questa economia di ripartire, quindi è anche un qualche cosa che volge sull'ottimismo anche del domani. Però il come affrontare questa cosa qua. Sì, non le piace questa prova, diciamo, questo modo muscolare, lei dice. Senta, chi c'è dietro il movimento molto complesso, molto variegato, immagino, dei Notav? Lei vede solo Valsusini oppure teme che ci sia anche qualche cosa di diverso? Beh, mi inquieta molto quello che i servizi segreti hanno detto nei mesi scorsi ed è saltato fuori in questi giorni, no? Di queste infiltrazioni eccetera, in un momento dove si contesta tutto, secondo me che ci possa essere una regia centrale di queste cose lo posso credere, nel senso che comunque purtroppo questa volta questi ragazzi sono anche tanto manovrati da chi ha un interesse politico, economico, non lo so, ma comunque ha un interesse per fare in modo che ci sia questa contestazione anche violenta. Ripeto, i movimenti Notav hanno dimostrato in questi mesi che sono non violenti. È il contorno che è violento, è il contorno. Ma il contorno che vuol dire? Il contorno cosa vuol dire? Me lo identifichi il contorno? Il contorno vuol dire questi qua che sono dei centri sociali, gli anarchici che arrivano e magari al ritorno di una manifestazione scassano tutti i treni, cioè. Questo è il contorno che è violento, non è questo che comunque. Allora, lo Stato per assurdo interviene pesantemente sui comitati, sulla gente dei comitati che sono fondamentalmente non violenti, poi lascia andare questi qua che sono violenti. Cioè, queste cose qua io non le capisco, non le riesco neanche a concepire. Senta, ci può spiegare cosa vuol dire essere a favore della TAV per il sindaco di Chiomonte? Cioè, allora, concretamente la sua vita ne ha risentito? Essere un uomo così solo, un uomo indifeso, un amministratore in solitudine, dove appunto la politica che ruota intorno a lui è completamente assente, un qualche cosa che viene lasciato lì. Cioè se io fossi oggi un amministratore contro la TAV sicuramente avrei una massa intorno che mi solidarizza tutti i giorni senza nessun problema. Essere a favore vuol dire questo, vuol dire essere solo. Essere solo, ma lei in passato ha subito anche minacce? Beh, sì, passato, neanche poi tanto passato lungo, comunque andiamo avanti, non sono queste cose che mi preoccupano, più le vicende contro i miei figli che contro la mia persona. Cioè? Che vuol dire? Hanno minacciato anche suo figlio? Ma io adesso arrivo ad accompagnare mio figlio a scuola, come tutte le mattine, perché lui non può viaggiare in treno. Perché? Sennò che succede? Perché sennò qualcheduno che è identificato, perché comunque l'abbiamo già sempre personalmente identificato, gli ha detto che gli avrebbe ricordato alcune cose, quindi vuol dire che comunque l'avrebbero magari anche picchiato. Ma il problema non è il fatto che mio figlio può prendersi due sberle, perché credo che nel periodo della scuola tutti ci siamo presi due sberle per motivi anche diversi, eccetera. E il problema è della mia reazione, che le posso garantire che non sarebbe troppo tranquilla, diciamo. Insomma, questo è il clima un po' che si respira, non un clima bello, anche per quello che potrà succedere nei prossimi giorni, no? Lei, tra l'altro, farà parte dei sindaci che va in prefettura a Torino oggi a chiedere la sospensione dei lavori, sì o no? Assolutamente no. No. Cioè continuano i lavori, sebbene ci sia stata anche questa tragedia, fatalità, chiamiamola come vogliamo? Sì, con i lavori continuano, però vorrei proprio mettere in evidenza questo punto qua. Quando ci sono dei ragazzi come Luca che sono disposti a un gesto che può sembrare estremo per contestare un'opera, bisogna aprire veramente un momento di riflessione, ed è questo che io voglio dire, no? Cioè, non si può veramente pensare a quelli sono rozzi montanari, continuiamo ad andare avanti, mandiamo magari più forze dell'ordine per fare. L'opera va fatta, ma va fatta con intelligenza, va fatta con un'integrazione del territorio. Ieri sera sentivo l'onorevole Di Pietro che diceva: io sono favorevole al corridoio 5, se non la vogliono in Val Susa la facciamo dall'altra parte. Questa è una soluzione un po' troppo semplicistica del problema, che quando si ragiona, quando i politici ragionano in questo modo, credo che siamo proprio arrivati alla frutta, anzi al digestivo. Io intanto, sindaco, la ringrazio, ovviamente in bocca al lupo. Non è certo una vita molto semplice anche la sua vita quotidiana. Grazie per essere stato con noi, sindaco di Chiomonte. Grazie Renzo. A lei, grazie a tutti. Grazie Renzo Augusto Pinard, sindaco di Chiomonte in Val di Susa. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi parliamo di un fatto di cronaca che riporta alla memoria di diversi anni fa. Vi ricordate la cura o presunta cura o il metodo Di Bella? Il metodo alternativo messo a punto dal professor Di Bella, appunto, che spaccò l'Italia in due per curare il cancro. Ieri, o nei giorni scorsi, un giudice di Bari ha ordinato all'ASL, sul ricorso ovviamente di un malato, di somministrare gratuitamente la cura Di Bella, una cura che la comunità scientifica ha giudicato non efficace, ma che torna evidentemente a fare discutere. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:36 minuti. Vogliamo parlare di questo caso di cronaca che ieri è finito sulle pagine dei giornali, che proviene da Bari, dove un giudice, accogliendo il ricorso di un malato di cancro, ha imposto alla ASL locale, che farà ricorso comunque verso questa decisione, di curare questa persona con il metodo Di Bella. Ve lo ricordate la vicenda circa 15 anni fa, quando nel 97 ci fu il primo pretore di Lecce che impose appunto questo metodo, cura, presunta cura? Adesso non voglio entrare nella polemica delle definizioni, insomma il metodo Di Bella, chiamiamolo così, che spaccò l'Italia in due. Per due anni non si parlò quasi d'altro, no? Il metodo messo a punto dal professor Di Bella, che disse è un metodo per curare, alternativo ovviamente a quelli tradizionali, la chemioterapia, la radioterapia, per curare il cancro. Ci fu l'Italia spaccata in due, ci furono molte polemiche, ci fu anche una sperimentazione richiesta dal ministro di allora, che era Rosi Bindi, ci fu anche la comunità scientifica che di fatto sancì che quella cura non era di fatto una cura che rispondeva ai canoni. In ogni caso, ne vogliamo discutere, perché torna prepotentemente la ribalta questa vicenda, con il dottor Giuseppe Di Bella, che è il presidente della Fondazione Di Bella, nonché figlio di Luigi Di Bella. Buongiorno e benvenuto, professore. Grazie, buongiorno. Saluto anche il professor Silvio Garattini, farmacologo dell'Istituto di Ricerche Mario Negri, già nostro ospite varie volte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto Giuseppe Di Bella, chiariamo, questa sentenza non è la prima, probabilmente non sarà neanche l'ultima, sono state tante. Lei credo le ha quantificate circa in 2000 le sentenze di magistrati che come quello di Bari hanno deciso bisogna dare il metodo Di Bella. È così? Sono circa 2000? Sono oltre 2000. Oltre 2000. Io ieri a un quotidiano che mi ha fatto richiesta ho mandato le ultime 11. La cosa fondamentale è che ci sono, la maggior parte, sono delle sentenze di merito. Il significato è questo: se un paziente è chemioresistente, come è successo recentemente in due linfomi, in cui la chemio non aveva avuto esito, e facendo la terapia Di Bella sono guariti e chiedono la terapia, allora il giudice nomina un perito tecnico di ufficio in CTU, il quale esamina tutta la documentazione. Se arriva alla conclusione che con la terapia Di Bella il paziente è guarito, condanna l'ASL a erogare la terapia. Sì. Io a Bologna ho una paziente che ha fatto esattamente questo ricorso e ha raccontato la sua storia con il suo nome al quotidiano nazionale, al giornale, edizione online. Ci sono 9 testimonianze di pazienti guariti completamente, stabilmente, solo con la terapia Di Bella. Però che ne pensa, perché lei, dottore, dice guariti con la cura Di Bella, è una guariti frase, vuol dire questo, è una frase anche molto forte, messo, cioè che ricorda le polemiche, a dire no guariti. Ma sono superate, sa? Io non perseguo nessuna polemica. Noi abbiamo pubblicato sulle riviste internazionali questi casi, sono stati accettati e pubblicati da riviste internazionali che hanno ritenuto valida la documentazione. Per cui le riviste sono l'American Journal of Therapy, l'International Journal of Gynecology Cancer, e recentemente a Milano ho portato casi di tumore mammello trattati con la terapia, sono andati in remissione oltre sei anni, se non so se si può parlare di guarigione. Questo congresso europeo pubblicato sul giornale internazionale di ginecologia, li ho portati a 2 congressi mondiali, nel cui comitato scientifico c'erano dei Nobel, sono pubblicati sulla... Sì, quindi lei dice sono tutte cose validate. Perciò e queste sono cose ormai superate. Sì. Noi non ci però che ne pensa? Che ne pensa del fatto che, come lei ben sa, poi fu contestato, ma ci fu questa sperimentazione che fu fatta e la scienza, se vogliamo considerarla così, uniforme, univoca, ha parlato dicendo che il metodo Di Bella non era una cura scientifica. Scusi se la correggo, ma è assolutamente inesatto. Intanto bisogna intendersi cos'è la scienza. Giornali scientifici di prima grandezza, come il British Medical Journal, come Neuroendocrinology Letters, hanno addirittura ridicolizzato la sperimentazione, che è mancata dei requisiti fondamentali per dare dignità, dicendo che è destituita di significato scientifico. Nell'ultimo lavoro pubblicato su Neuroendocrinology Letters c'è l'intera terapia Di Bella, che è sulle banche dati mondiali, sono 45. Una pagina intera porta gli 11 elementi di invalidazione totale della sperimentazione. Hanno dato una sostanza cancerogena come l'acetone ai malati di cancro, farmaci scadute in quindi 1042. Ora, in queste condizioni, nella letteratura internazionale c'è la documentazione, riviste internazionali, perciò non potete parlare di comunità scientifica, perché se signori Business Medical Journal, Neuroendocrinology Letters, o che personaggi come Lucien Israeli, ex presidente dell'Accademia di Francia e direttore del primo centro oncologico francese e il presidente onorario della Fondazione Di Bella, coordinatore scientifico, e Freiberg, uno dei massimi ricercatori, siamo in pieno campo scientifico, su questo tipo di polemiche superate. Va bene, no, ma interessante questo, però si fermi un attimo Di Bella, io vorrei coinvolgere su questo anche il professor Garattini. Allora, non so se questo tipo di polemica è superata o, professore, qua si torna alla questione delle false speranze o giuste speranze, diritto di libertà di cura, e anche io introdurrei il fatto del perché un magistrato debba decidere a che tipo di cura debba sottoporsi un paziente. Al di là del fatto del metodo Di Bella. Intanto, professore, lei le piace l'impostazione di Giuseppe Di Bella, che dice no, ma qua è tutto scientificamente provato? Ma io intanto direi che purtroppo in questo paese nessuno fa il proprio mestiere e quindi tutti sanno di tutto e tutti decidono su tutto, che è una anomalia veramente importante. Per quanto riguarda il problema in generale, quello che racconta il dottor Di Bella è molto frutto della sua fantasia più che dei dati di fatto, perché noi in Consiglio Superiore di Sanità, anche non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di rivedere alcuni dei dati e le schede, diciamo che cliniche, sono di bassissima qualità, sono delle schede che non permettono di prendere nessuna decisione. I giornali che lui cita, su cui hanno pubblicato i dati, sono giornali di bassissima qualità. La sperimentazione che è stata fatta era una sperimentazione che è criticabile, perché anch'io ho criticato, perché non si doveva fare una sperimentazione del genere, eticamente non era giustificata, però era una sperimentazione che aveva la caratteristica di rispondere alle affermazioni del professor Di Bella, siccome diceva che tutti guarivano con il suo metodo. La sperimentazione era fatta non tanto per vedere quanto era efficace, ma per vedere se tutti guarivano. Purtroppo sono tutti morti. Ora, bisogna comunque, per chiarire un po' le idee, bisogna dire che oggi esistono dei metodi che sono, diciamo, universalmente accettati per stabilire se un prodotto, se una serie di prodotti sono efficaci dal punto di vista clinico. La sperimentazione consiste sostanzialmente nel prendere dei pazienti, fare in modo che abbiano un consenso informato e poi a caso distribuirli fra la terapia classica e la nuova terapia. Alla fine di un certo periodo si tirano le somme e si vede se c'è una differenza fra le due terapie. E questo è il modo classico con cui bisogna fare. Chi non lo fa si pone al di fuori del metodo scientifico. Che ne questa pensa, sperimentazione però, non è mai stata fatta e quindi non ha, è al di fuori di ogni metodologia. Che ne pensa invece, professore, del fatto che un magistrato stabilisca che una cura che diciamo lo Stato italiano ha torto a ragione, però ha stabilito che in base a una sperimentazione non è efficace, c'è un magistrato, cioè un altro pezzo dello Stato che dice no, la ASL la deve somministrare. Sì, questo diciamo è assolutamente anomalo, perché obbliga la ASL a spendere dei soldi dello Stato per una terapia o per un metodo che non ha nessuna validazione scientifica, perché il dottor Di Bella può dire quello che vuole, insomma, ma in giro per il mondo, noi con la situazione, con il caso Di Bella, abbiamo fatto ridere il mondo intero, insomma, quindi non è che può citare probabilmente qualcuno che ci crede, ma la maggioranza della ricerca in campo oncologico non ha preso neanche lontanamente in considerazione questa metodologia. Allora ripartiamo da qui, proprio da questa frase anche molto dura, che abbiamo fatto ridere il mondo col metodo Di Bella. Alle 8:48 minuti, allora, dottor Di Bella, non mi faccia sciorini adesso l'elenco delle pubblicazioni scientifiche, io non le conosco, devo dire, a me non sono medico, non è che se lei mi cita tutte le riviste che mi ha citato prima, cosa posso fare? Io posso solo ascoltarla. Però le chiedo questo. Intanto replichi a Garattini, che dice abbiamo fatto ridere il mondo, questa è la verità. No, ma lui ha perfettamente ragione, abbiamo fatto ridere il mondo, ma non per il metodo, per la maniera con cui il Ministero ha esaminato il metodo, al di fuori di qualsiasi regola internazionale. Per questo abbiamo fatto ridere il mondo. Per questo il Business Medical Journal e Neuroendocrinology Letters hanno scritto che il metodo oggi è validato a due livelli, i singoli principi del metodo è documentato che sono interattivi, ci sono i lavori. Prima dicevano che non c'era una pubblicazione, adesso non gli piacciono le riviste. Se il professore ritiene che un congresso internazionale, ma anche una rivista come l'International Journal of Gynecology Cancer, che ha organizzato il congresso a Milano, sia una rivista scadente, siccome di pure. Ripeto, io però, dottor Rivella, io non la conosco questa rivista, cioè lei me la cita, per me potrebbe essere la Bibbia della medicina, piuttosto alle banche dati mondiali pubmed.gov. vedono chi racconta balle. PubMed.gov è la banca dati mondiale. Si vadano a documentare sul fatto che i componenti della terapia, somatostatina e melatonina, hanno migliaia di pubblicazioni che sono interattivi e che sono pubblicazioni PubMed.gov. Qualsiasi ascoltatore va sulla banca dati mondiale a vedere che questo. Racconta basta. Garattini, un'ultima cosa, il fatto dei tempo. Giudici non è altro che la rivendicazione del cittadino di non avere la sua salute gestita dal politico, perché il politico impone linee guida ministeriali che il paziente non accetta. I pazienti ma così però scusi si rompe anche fatto, documentati e verificati dottor Di Bella, così si rompe anche il patto di fiducia tra paziente e medico, cioè lei sta dicendo che se uno si affida a un medico cos'è? Il medico ci impone delle linee politiche, voglio dire dei ministeriali, ci sarà anche un patto di fiducia per il quale il medico, uno va dal medico e il medico ha come primo scopo quello di cercare di guarire nel modo migliore, no? Il ricorso ultimo del paziente per avere libertà di cura, perché non accetta che la sua cura sia gestita dal politico attraverso commissioni ministeriali, le quali commissioni ministeriali è documentato, ne possiamo fare un dibattito, che non recepiscono se non in misura minoritaria le evidenze scientifiche. Sentiamo quando su questo, no, scusi sentiamo su questo Garattini, lei che non è mai stato tenero, anche su, non è mai stato tenero lei Garattini in passato, anche sugli possibili interessi che ci sono dietro i farmaci, le cure, segue un po' il dottor Di Bella su questo? No, assolutamente no, cioè la critica va fatta a un altro livello, semmai non a quel livello lì. Bisogna dire che sulle riviste e i congressi scientifici, ma si può presentare di tutto, il congresso scientifico che ammette, diciamo, la presentazione di poster e di comunicazioni, basta pagare l'iscrizione e uno presenta i suoi dati, ma non è mica una prova che questo serva. Oggi per poter fare una terapia bisogna passare attraverso le autorizzazioni delle autorità regolatorie, che hanno dei metodi attraverso cui accettano o non accettano il fatto che un farmaco abbia il rapporto benefici-rischi favorevoli. E il dottor Di Bella vuole passare attraverso le vie indirette, cioè non passa attraverso le vie legali attraverso cui si riesce a avere... Le vie legali uccidono il paziente non ha diritto a ribellarsi. Ma si deve ribellare per che cosa? Si deve ribellare per la vita. Si deve ribellare perché gli vengono negate delle cure di provata efficacia. Ma scusi, dottor Di Bella, lei ci sta. Una vastissima. Dottor Di Bella, lei sulla somatostatina, pubblicazione di Nobel come ma che vuol dire? Ha 28.000 lavori ed è l'elemento base della cura antitumorale. Se il nostro ministero non prevede l'erogazione della somatostatina, per quale motivo il paziente deve rinunciare a un prodotto fondamentale? Ma mi spieghi, dottor Di Bella, mi scusi. No, perché le commissioni ministeriali faccio una domanda io a Giuseppe Di Bella, ma qual è l'interesse secondo lei che starebbe sopra nel negare una cura che è una cura che potrebbe guarire il cancro? Mi dica qual è l'interesse. Adesso non c'è tempo, lo dica agli ascoltatori. Se lei mi fa rispondere io rispondo, se non mi fa rispondere la saluto e chiudiamo. Se va sulle evidenze scientifiche, in base a quale il medico dovrebbe scrivere, se ci sono 3 pubblicazioni di riviste diverse accreditate sulle banche dati e dato scientifico, sull'impiego antitumorale della somatostatina ci sono 20. Ma io le ho fatto un'altra domanda, lavori. Professore. No, ma le ho fatto una domanda. Un premio Nobel, che il Said è un candidato a Nobel a Pollack, è un elemento cardine della scusi, cura ma lei posso... Per quale motivo il paziente se lo deve pagare? Ma scusi, Di Bella, mi può rispondere alla domanda? Io le ho fatto un'altra domanda, mi può rispondere a questa domanda? Questa. Le chiedo qual è l'interesse che starebbe dietro al fatto che la sua cura viene osteggiata, cioè perché lei, è una cura efficace, mi dica... Bene, e lei è così ingenuo da farmi una domanda del genere? Sono ingenuo io. Sì, io faccio una domanda ingenue perché magari ma si capisce. Piacere, ma se l'hanno capito tutti, lo viene proprio a chiedere a ma me. Capito tutti. Per quale motivo non devono usare prodotti fondamentali testati dalla ricerca? viene a chiedere a me perché non li devo che cosa? Non ci arriva, no? Ma me lo dica lei, io non ci arriva. Io faccio le domande, lei risponda se crede, se lo ritiene opportuno. Non mi deve fare delle domande ovvie di cui la risposta ovvio. È altrettanto ovvia. Non so, lei Garattini la risposta, cioè, cos'è? La lobby, Garattini, mi aiuta lei a trovare una risposta a una domanda ingenua? Che fa... interessata, non fa fatturato. No, ma dica Garattini, non so. Ma non c'è nessuna ragione per cui si debba negare, fra l'altro non è un problema economico perché lo Stato per altri prodotti lo dico io, la lobby delle case farmaceutiche, questa forse è la risposta. Ma le case farmaceutiche sarebbero felici di vendere la terapia di Bella se fosse efficace, sarebbero i primi a sfruttarla, sarebbero, non capisco perché, io però credo che bisogna dare un messaggio alla gente, agli ammalati, insomma, fidatevi della ricerca, seria, fidatevi di coloro che lavorano tutti i giorni per trovare farmaci, per trovare rimedi, per migliorare le sofferenze dei pazienti che hanno tumore, e non fidatevi dei magistrati, i quali naturalmente non hanno nessun elemento per poter prendere decisioni. Allora, io qui mi devo fermare, ringrazio il dottor Giuseppe Di Bella, presidente della Fondazione Di Bella, figlio di Luigi Di Bella, così come il dottor Silvio Garattini. Allora, che dire, su Facebook ci trovate 24 mattino e continuiamo così. Sono anche su Twitter io, @AlinoMilan, Peter, tu mi vieni a trovare. Ringrazio tutti, Elisabetta Fusconi in redazione con Alessandro Longoni, Miriam Lucchetti, Viola Bottoni, a tutti quanti grazie. Peter Bescapè, il nostro alpino, e sarà qua domani puntuale 7:20.